24 mattino. Non ho parole, con tutti i problemi che abbiamo, cassa integrazione, disoccupazione, povertà che viene avanti, i 5 Stelle parlano di un congresso, robe da pazzi, invece di concludere parlano di un congresso, robe da pazzi. Sì, però lei ride, ma fino adesso diceva che fare gli stati generali è giusto e raccogliere le idee è giusto, poi se Di Battista dice che è giusto fare un congresso per raccogliere le idee del Movimento 5 Stelle, invece è ridicolo. Volevo ricordare che al governo c'è il signor Conte e se non è in grado di portare a casa degli accordi, che si faccia da parte o no? Non che dica a Salvini di occuparsene lui essendo opposizione, al governo c'è lui. No, ma guardi, non mi sembra che Conte abbia detto a Salvini di occuparsene. Ha detto, beh, visto che avete buoni rapporti con i paesi di Visegrad, migliori dei nostri con i leader, beh, perché non intercedere? Ha detto, se lo farete vi ringrazieremo pubblicamente. In realtà c'è del veleno in quella dichiarazione di Conte, no? A dire... Guarda, caro Salvini, che sono proprio i tuoi amici che stanno bloccando gli accordi in Europa, i polacchi, gli ungheresi. È chiaro, no? Che è una dichiarazione politica, un del veleno politico dentro, evidente, no? Su Di Battista, sul congresso. Sì. È giusto che il Movimento 5 Stelle raccolga le sue idee, per carità, guardi, non tutti i movimenti di democrazia all'interno di un partito, di una formazione politica sono importanti, ma aprire il mega dibattito interno sui 5 Stelle, chi è il leader, cosa succederà nel futuro in questa fase, e quindi entrare in un gioco di specchi politico, di scontri, di dichiarazioni mezzo stampa, mezzo tweet e mezzo Facebook, non lo so se è il caso, in tutta sincerità. Poi magari sbaglio io, è giusto farlo adesso, per carità. Concordo di più col primo ascoltatore. Alle 7:21 minuti e 5 secondi è lunedì 15 giugno e questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, come sempre con una carrellata sui titoli dei quotidiani, tutti dedicati esattamente a questo, a questo scontro politico, assalto a Conte, terremoto M5S, titola il Messaggero. 5 Stelle, venti di scissione, La Repubblica. Partito di Conte, Grillo spacca i 5 Stelle, La Stampa. 5 Stelle, alta tensione su Conte, Il Corriere della Sera. Grillo torna e striglia Dibba, Taverna, Conte aiuti i 5 Stelle, Il Fatto Quotidiano. E poi il Quotidiano Nazionale. I 5 Stelle litigano, noi paghiamo l'IMU. Il Giornale, i nuovi boia di Indro, l'apertura è sulla statua di Montanelli, imbrattata. Libero, amici, si salvi chi può, i 5 Stelle riformano il fisco. La Verità, Conte chiacchiere e twitta ma si scorda i cassi integrati. E il Sole 24 Ore, che è il Sole 24 Ore del lunedì, che porta dei dettagli importanti sui soldi a fondo perduto, tax credit e prestiti, provano lo sprint, ci raccontano i colleghi del Sole 24 Ore nei loro servizi. E poi Sole 24 Ore che domani avrà il piano Colau in versione integrale con le idee sul rilancio. Insieme al Quotidiano, l'apertura della Gazzetta dello Sport è su Conte l'altro scontento con Conte, il gioco di parole scontento, vabbè, mettiamo da parte, andiamo proprio sulla cassa integrazione, andiamo proprio sulla cassa integrazione. Mi scrive un ascoltatore: buongiorno, nonostante le promesse alla mia compagna non è stata pagata la cassa integrazione. Caro amico, sono in tanti come lei, ne abbiamo parlato già poco fa e però abbiamo un po' di giornali che focalizzano l'attenzione su tutto questo. Perché? Perché il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, aveva rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica la settimana scorsa, se non vado errato lunedì, dicendo: non vi preoccupate, entro venerdì sarà pagato tutto. E a pagina 11 del giornale troviamo che in effetti non è stato così. Ecco il documento dell'INPS che svela le bugie di Tridico. Nelle carte la conferma del flop nascosto. 1 milione ancora senza cassa integrazione, ci fa sapere Giuseppe Marino, appunto a pagina 11. Da venerdì Pasquale Tridico insiste ad assicurare che l'INPS, come lui aveva promesso, ha pagato tutti gli assegni di cassa integrazione rimasti in lunga attesa. Ora c'è la prova che nasconde la verità, un documento interno dell'INPS. A contraddire Tridico c'erano già l'ordine dei consulenti del lavoro, alcune associazioni datoriali e rappresentanti dell'opposizione, ma niente, il professore insisteva. Prima con una dichiarazione alla stampa, ieri con una frase al Corriere della Sera che contiene una sibillina precisazione. Tutte le domande regolarmente ricevute sono state pagate. L'inghippo sta nel termine regolarmente. La complessa procedura di richiesta della CIG prevede diversi passaggi, uno dei quali è la presentazione di un modulo, l'SR41, con il quale l'azienda comunica agli IBAN degli aventi diritto. Finché l'iter non è concluso, correggendo eventuali errori, si può dire che la domanda non sia regolarmente presentata. E su questo tema ci porta anche il quotidiano La Repubblica. Entro venerdì 12 giugno la cassa integrazione sarà liquidata a tutti, diceva il presidente INPS Pasquale Tridico nell'intervista a Repubblica del 7 giugno. Siamo a pagina 7 del quotidiano La Repubblica. Non è andata così, racconta Valentina Conte. Venerdì scorso erano in coda ancora 656.000 lavoratori, meno della metà di quanti risultavano il 4 giugno, 1,4 milioni. Vi devo dire che qua poi in questa parte del pezzo c'è un po' la notizia, no? Perché parla Valentina Conte del segno di un'evidente accelerazione dell'INPS al ritmo di 182.000 bonifici al giorno, quasi 1,5 milioni in 8 giorni. Che vuol dire? Vuol dire che evidentemente questa cosa si poteva fare anche prima, e solo quando è emerso gli articoli, i vari quotidiani, a partire dalla stessa Repubblica, che 1,5 milioni di assegni di cassa integrazione non erano ancora partiti e che molte aziende avevano in realtà anticipato, eccetera, eccetera, solo a quel punto si è deciso di accelerare, si è deciso di partire e di mandare in pagamento 182.000 bonifici al giorno. Sarà da vedere, vedremo questi 650.000 quando arriveranno, se ci sarà un'accelerazione ulteriore. In tutto ciò, sapendo che voi siete degli appassionati del genere, e sappiate che lo sono anch'io, non possiamo far mancare notizie su Alitalia. In tutto ciò, vien da dire, mentre mancano ancora 650.000 persone alle quali pagare la cassa integrazione, arrivano i famosi 3 miliardi per Alitalia, il famoso, l'ennesimo prestito ponte. A quanto pare ci sarà un vertice decisivo in settimana, ne riportano il Quotidiano Nazionale a pagina 17 e il Messaggero a pagina 6, il Quotidiano Nazionale con Giuseppe Turani, il titolo è emblematico. Il governo trova altri 3 miliardi per Alitalia. È il via libera al maxi prestito per salvare l'azienda. Siamo alla vigilia di un autunno difficilissimo, scrive Turani, con migliaia di aziende in crisi e migliaia di famiglie bisognose di un sostegno pubblico. È evidente che ci sarà da tirare la cinghia. I soldi non li avevamo prima e non li abbiamo adesso. Eppure in questo contesto complicatissimo, lo Stato ha trovato 3 miliardi da destinare come prestito agli sgangherati conti di Alitalia, soldi che non saranno mai restituiti, visto che la compagnia perde regolarmente denaro. così Turani, e il Messaggero, insomma, con un pezzo un po' più tecnico, firmato da Umberto Mancini a pagina 6, ci racconta che l'Alitalia di Stato è al decollo con 105 aerei e 3 miliardi. Entro la settimana ci sarà il Consiglio dei Ministri per l'ok alla Newco e alla nomina di Lazzarini, che è Fabio Lazzarini, attuale capo del business, che è una figura che internamente l'azienda gode di grande stima, che sarà l'amministratore delegato. Si sta ragionando ovviamente anche sul presidente, e però resta un nodo complesso, che è il nodo degli esuberi, perché se è vero che una flotta di circa 105 aerei consentirebbe di salvaguardare l'attuale organico, sul fronte del personale di terra i problemi sono tanti, soprattutto se, come sembra, una parte dei dipendenti di Air Italy verrà assorbita insieme ad alcuni slot di Linate ai diritti verso gli Stati Uniti. E cita Umberto Mancini non a caso nel suo pezzo il piano Lacrime e Sangue di Lufthansa. Lufthansa, perché molto si dice, no, di Lufthansa, che sarà supportata con 9 miliardi di euro dal governo tedesco, e però sappiate che i dati indicano che Lufthansa ha annunciato un taglio del personale di 22.000 persone per reggere all'urto della crisi. Una pausa, poi ci ritroviamo con Paolo Mieli, parleremo anche della vicenda Montanelli e di tutte le questioni politiche. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Io credo che non bisogna parlare della battaglia delle 5 Stelle, perché ormai è evidente sotto gli occhi di tutti che è un movimento spaccato al suo interno già da molto tempo. Ci sono due correnti e due correnti di pensiero all'interno dello stesso movimento, quindi sprecarci stampa non serve a niente, secondo me. Ovviamente la questione non è la statua, della statua chi se ne frega, ce ne possono essere 20. La questione è un'analisi un pochino più obiettiva di quello che la figura di Montanelli è stata nei fatti e nella sostanza delle sue posizioni. Ed eccoci, caro Paolo Mieli, buongiorno Paolo, come buongiorno, stai? Bene, allora devo dirti, mi piace la freddezza, per così dire, con la quale il nostro ascoltatore affronta la cosa, no? Senza che si scaldino troppo gli animi. Vorrei chiedere in apertura del nostro appuntamento del lunedì proprio a te un commento, una tua analisi su questa vicenda, sulla statua di Montanelli imbrattata. Sui giornali ce n'è di ogni, dal Giornale che decide di aprirci, perché insomma Montanelli è il fondatore, Nuovi Boia d'Indro, no? Si chiama infami, c'è un titolo a tutta pagina, ultimo affronto al nostro fondatore, i centri sociali imbrattano la statua posta nei giardini dove fu gambizzato, già, perché pochi lo ricordano, ma Montanelli fu anche gambizzato da un comando di ultrasinistra, di sinistra armata, sì. E poi si lamenta, dice la sinistra, un articolo di Luigi Mascheroni, la sinistra fa ancora dei distinguo, perché in effetti la sinistra appare imbarazzata, difende la statua, difende persino l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani difende la statua, però si coglie un imbarazzo perché l'episodio Montanelli che ha sposato, ha avuto in sposa, in dono, una bambina in Eritrea di 14 anni, alcuni giornali dicono 12, ma sì. Marco Travaglio oggi, che fa una lunga di esame proprio del caso specifico, dice che a lui gli ha detto che ne aveva 14. Sì, lui stesso Montanelli ha dato due versioni, in una aveva 12 anni, in un'altra aveva 14 anni. Insomma, non è lì che fa la differenza. Cosa ne penso io? Cosa vuoi che ne pensi? Che tutte le vicende vanno messe nel loro contesto storico, e come appunto le accuse che si fanno a Churchill, un'altra statua che fa molto discutere, quella di Churchill in Inghilterra, e che io forse per me non abbatterei mai nessuna statua, anzi metterei in Costituzione una norma che vieta la distruzione delle statue, perché le statue hanno un significato non solo in sé, ma anche per il momento, sono una testimonianza storica, per il momento in cui furono collocate. Mi fa piacere che a Roma ci sia ancora l'obelisco con Dux e Mussolini al Foro Italico, nel senso uno lo guarda, pensa, ripensa i momenti, insomma le statue abitano a un pensiero critico. Poi per quello che riguarda Montanelli ritengo che sia un gigante, non entro nel merito dell'episodio della ragazzina, della bambina, quasi bambina eritrea che fa parte del suo tempo, e anzi è noto che Montanelli insieme a migliaia e migliaia di persone che fecero quella pratica è stato l'unico a raccontarla, l'unico a riferirne anche con una certa dose di commozione, e quindi io sono contro l'abbattimento di ogni statua e in particolare contro l'abbattimento e l'oltraggio a quello di Montanelli. Però guardate, lo dico a mio discapito, che noto che tutti sono, non ho visto sui giornali articoli che dicano sì, abbattete quella statua, rimuovetela, non mi sembra notata. E nonostante questo noto che il movimento cresce oggi, vabbè, noi facciamo solo un rassegno della stampa nazionale, ma rimbalza anche sui giornali stranieri questa storia della statua di Montanelli, e evidentemente è una prima prova per cui il mondo di internet, il mondo web è più forte di quello della carta stampata, perché è sul mondo web che è montata questa campagna. Non c'è un solo giornale che io abbia letto di carta stampata che aizzi contro Montanelli, mentre il mondo web è impazzito sulla cosa. Sì. Sui giornali sono tutti, Battista, sul Corriere, sono tutti in difesa. Sì, Aiello sul Messaggero. Sì, ce l'abbiamo un po' tutti. Dall'altra parte questo ci porta al movimento negli Stati Uniti, a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, no? Perché tutta questa discussione, tutto questo tema delle statue, no? è collegato a questa vicenda. Sì, perché negli Stati Uniti, gli ascoltatori ce lo sapranno, ieri è stato ucciso un altro ragazzo, perché aveva 27 anni, di colore ad Atlanta, si chiama Rachel Brooke. E lì è successo un finimondo, perché Atlanta, a parte che è una seconda uccisione, in realtà una terza perché ce n'è stata un'altra sia pure contestata, ma una seconda uccisione con questo clima ha buttato benzina sul fuoco, ma poi perché Atlanta si è dimessa immediatamente la capa della polizia, e che si chiama Erika Shields, che è una bravissima capa della polizia, da quello che dicono i giornali, ma soprattutto la sindaca sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, è una dei personaggi candidati a essere nera, ed è uno dei personaggi candidati a essere vice di Biden alle prossime elezioni presidenziali, e quindi la vicenda di Atlanta, oltre ad essere in grave in sé, questo ragazzo è stato sparato alle spalle, peggio ancora del ginocchio, che poteva essere sfuggito al controllo di un poliziotto fuori senno, ma qua proprio è stato sparato, si sono visti i video, e mette in grave difficoltà questa sindaca che ha un futuro in politica. Poi il movimento delle statue continua in tutto il mondo, riprende anche in Italia, perché in Italia per esempio il PD, nella notizia Libero, fa un'altra questione, dice che a Milano ci sono solo statue di uomini, Libero dice no, ce n'è una anche di una donna, ma il PD insiste e dice che bisogna fare una statua a Fernanda Pivano, la grande scrittrice, traduttrice di scrittori della Beat Generation, amica di Kerouac, di Hemingway, di tutti quanti, e poi nelle motivazioni dice anche a casa sua nacque il movimento per la liberazione di lesbiche, omosessuali e transessuali, in nome di questo vuol fare il giornale Libero, non ti dico polemizza molto, molto, molto, molto duramente. Vorrei segnalare agli ascoltatori, in chiusura di questa parte, l'abbiamo già accennato prima, in chiusura di questa parte, diciamo, dedicata ai movimenti, Black Lives Matter, eccetera, eccetera, che sia la stampa che la Repubblica portano in prima pagina questa foto che è bellissima, oggettivamente, una foto stupenda, ed è la foto appunto di Patrick Hutchinson, che fa parte del movimento, che era là per protestare e che porta un uomo di estrema destra che rischiava di essere sostanzialmente linciato. Se mi dai un attimo prima di chiudere, in Francia oggi è il giorno delle scuole riaperte, riapre tutto oggi in Francia. Sì. Dal 22 giugno riparte la riapertura delle scuole. Sì, è l'annuncio, scusami, oggi è dal 22 giugno, e invece in Asia, pagina 14 del Corriere della Sera, c'è una nuova ondata, attenzione, perché anche l'altra volta sottovalutammo l'ondata che parte da Pechino, ma investe l'Iran, dove i contagi sono alle stelle, l'India, e quindi date un'occhiata alle notizie nei giornali che sfoglierete, date un'occhiata alle notizie che vengono dall'Asia, perché lì c'è un allarme. Sì, e l'altro allarme riguarda Roma in realtà, ne parla, non so se hai visto il Fatto Quotidiano, a pagina 4 ci fa sapere che tramite il San Raffaele, per così dire, il virus si è introdotto negli studi della Rai, no? Sì. In realtà è da una settimana, tocca aggiungere, perché io le prime notizie le ho apprese una settimana fa, che il virus ha cominciato a circolare, per adesso si parla di 6-7 casi, forse meno, però da un tecnico che aveva una mamma a San Raffaele si è diffuso alla Rai. Se una cosa alla Rai sarebbe un caso clamoroso, sicuramente. Il traffico, e poi ci ritroviamo con tutta la parte politica. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com. ERP e Digitech per aziende sfidanti. Ho visto che stiamo per parlare di Movimento 5 Stelle, di tutto lo scontro tra Di Battista e Grillo. Caro Paolo, fammi riportare una notizia che è arrivata da poco, ne riferisce il giornale online L'Inchiesta, che riporta quello che si trova su un quotidiano spagnolo, ABC. Secondo il giornale conservatore, secondo il giornale spagnolo, nel luglio 2010 il regime guidato da Chavez, il regime venezuelano, finanziò il Movimento 5 Stelle con 3,5 milioni di dollari. All'epoca Nicolás Maduro era ministro degli esteri, 3,5 milioni di euro. Sarebbero arrivati questi soldi a Casaleggio Senior, definito promotore di un movimento rivoluzionario anticapitalista e di sinistra nella Repubblica Italiana. Questa è una discreta bombetta che ci aspettiamo che nell'arco della giornata si farà sentire, naturalmente. Però intanto stiamo alle cose di ieri, direi, Paolo. Spiegherebbe perché il Movimento 5 Stelle, quando l'anno scorso tutta l'Europa, nel febbraio, marzo dell'anno scorso, tutta Europa si schierò dalla parte di Guaidó, che sfidava Maduro, invece il Movimento 5 Stelle pretese che l'Italia tenesse una posizione neutrale, che non si schierasse contro Maduro, e si sono sempre dichiarati ammiratori di Maduro. Sembra che fosse semplicemente una passione, una sbornia di carattere terzomondista. se fosse vero, io sottolineo 3-4 volte, se fosse vero quello che racconta per sé, beh, certo sarebbe un caso clamoroso. Clamoroso, sicuramente. Sottolineo che anche una cosa che mi incuriosisce, ma dov'è finita l'inchiesta sui rubli, soldi russi a Salvini? Perché anche queste cose, di queste inchieste che partono, siccome gli argomenti erano convincenti, insomma, capisco che un anno è tanto, però insomma, sì, un anno senza che si sia mai più parlato, queste cose che nascono e poi spariscono, comunque sì. Venendo ai 5 Stelle, oggi il caso è noto, tutti lo hanno preso dai telegiornali, Di Battista ha detto a Conte, guarda, se vuoi guidarci, candidati, facciamo un congresso, vieni da noi. Perché gliel'ha detto? Perché ieri è apparso un sondaggio su Corriere della Sera che diceva che nel caso in cui Conte avesse capeggiato i 5 Stelle avrebbe avuto il 30%, sì, poteva arrivare al 30%. Allora apriti un grande dibattito, e Di Battista è sembrato mettere uno stop a questa ipotesi, perché sai, un congresso. Ma Grillo, a sorpresa, che taceva da un sacco di tempo, ha detto che Di Battista è come un personaggio del giorno della marmotta, quello che ogni giorno si sveglia e rivede sempre lo stesso film, insomma è intervenuto molto duro. I giornali, spaccatura dei 5 Stelle, e alcuni ipotizzano addirittura una scissione, è stata ipotizzata varie volte la scissione, mentre gli altri, io non ci credo, la scissione, perché i 5 Stelle è un gruppo molto assai scombinato in questa fase, e l'unico collante che ha è il faro di Grillo. Allora, se si facesse una scissione, capisco, potrebbe indebolire i seguaci di Grillo, ma dove vanno tutti gli altri non lo saprei dire. E Grillo oggi, dall'agosto dell'anno scorso, è fautore di un patto, quasi di una fusione col PD, cioè che il 5 Stelle debba essere un partito di sinistra, per lui è un dogma che non si mette più in discussione. Quindi ed è implicitamente favorevole alla leadership di Conte, anche perché, come si vede dai fatti di questi giorni, di Di Maio non si fida più, di Di Battista non si fida più, di Vito Crimi neanche a parlarne, oppure sì, perché ma Vito Crimi è un personaggio piuttosto scialbo in questa fase, e quindi mi sembra che sia una grande tempesta, ma che ha un'unica sola via d'uscita, unica e sola. Allora Paolo, andiamo, direi, agli stati generali. No, guarda, tu non ti distrarre, perché no. Non sei tutta la situazione. Scusa, ero qua, guarda. Ma perdonami, ero qua che stavo guardando oggi le prime pagine. Guarda, fino a domenica. Sì. Oggi c'è Colao, questo pomeriggio rappresentanti sindacali Comune, Provincia e Regione, domani martedì Confcommercio e Artigiani. Poi mercoledì mi sembra di capire che si lavora solo il pomeriggio. Pigri. Giovedì in compenso c'è la festa. In mezzo alla settimana ci si prende una pausetta. Ma senti, tu giustifichi sempre. Giovedì Federturismo e Federpesca. Sì. Bello la Federpesca. Sabato, venerdì, vedo che la salta. Non vorrei prendersi l'altro giorno. Già hanno preso ieri di vacanza. Sabato sono partiti. Ieri vacanza. Non vorrei che. Sabato però la Feder Casalinghe, sì, la Lega Ambiente, Greenpeace, il WWF, e domenica gran finale con Renzo Rosso, Andrea Della Valle, Daniele Ferrero, e poi chiusura, c'è scritto proprio quello, chiusura con Renzo Piano, Massimiliano Fuxas e Salvatore Settis, cioè belle arti addirittura. Fino a domenica, e guarda, non ti azzardare a saltare. No, ma sento ironia nella tua voce, quindi io non c'è ironia. Ma devo dire che i giornali sono feroci. Oggi sì, c'è una risposta a un lettore del Corriere della Sera, di Luciano Fontana, il direttore, che viene messa in prima pagina e dice: no ragazzi, ma passate ai fatti. Il titolo è Il dibattito, è una citazione di Nanni Moretti. No, il dibattito, no, te lo ricordi? Il Corriere della Sera, guarda, vorrei segnalare che sono alcuni giorni, perché venerdì ha pubblicato un feroce editoriale di Ernesto Galli della Loggia, poi un altrettanto feroce editoriale, commento di Antonio Polito. Su Repubblica l'articolo oggi di Ezio Mauro, dell'ex direttore, è anche abbastanza pungente. Ieri c'era un articolo devastante di Francesco Merli. Insomma, questi stati generali secondo me avranno un successo strepitoso, però certo sui giornali, anche quelli neutrali, tranne il Fatto Quotidiano che plaude agli Stati Generali, ma sugli altri giornali invece no, non c'è una grande accoglienza. Allora, una segnalazione, siamo veramente in chiusura, voglio solo segnalare agli ascoltatori che oggi il pezzo più tra il Sole 24 Ore pubblica tutte le informazioni sui soldi a fondo perduto, tax credit, prestiti che provano lo sprint, ma uno degli articoli più interessanti è dedicato al tema dell'abuso d'ufficio, che è uno dei grandi temi che blocca la burocrazia italiana, uno dei grandi temi che arena i processi decisionali all'interno delle pubbliche amministrazioni italiane, cioè il rischio che corrono dirigenti e amministratori locali di trovarsi implicati in processi di qualche tipo. Ebbene, ci fa sapere il Sole 24 Ore, dati alla mano, che nel 2017, a fronte di oltre 6.500 cause, l'Istat ne ha contato 57 condanne e 6.000 archiviazioni. Beh, Conte aveva detto che tra l'altro questa disciplina sarà da rivedere, forse effettivamente è da rivedere. Dobbiamo... Visto che buttiamo, abbiamo un secondo. No Paolo, purtroppo no, dobbiamo veramente chiudere. Ci sentiamo mercoledì, GR24, a tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti, ci sarà la segretaria della CISL Anna Maria Furlan, Graziano Del Rio del PD, a tra poco.